Jesucristo ritornerà. Jesucristo regnerà. Cristo siede alla destra di Dio Padre. Egli è morto in croce, è disceso agli inferi, è risorto dai morti, è asceso nei cieli e verrà a giudicare ogni vivente. La storia finirà ed avrà finalmente un senso, finalmente un senso. Il tempo oramai si è fatto breve. Del Signore, rivoluzioni, guerre, cataclismi, terremoti, al suono della tromba coi suoi angeli lui verrà, farà precipitare l'anticristo e la grande Babilonia. Jesucristo ritornerà. Jesucristo regnerà. Guerre, pestilenze, carestie, lui verrà e svelerà i segreti del nostro cuore, delizie per i giusti, bene per gli empi ci sarà. Tra tempo e eternità un abisso, il bene vincerà sopra il male. E la storia che finirà avrà finalmente un senso, finalmente un senso. La pace abiterà nel mondo.